Natura della spiritualità nell'Islam. La dottrina dell'Islam sulla spiritualità si fonda sulla parola di Allah e Dio. L'uomo è responsabile verso Allah e Dio di ogni sua attività e deve usare tutte le sue energie e tutti i mezzi che Allah e Dio gli ha messo a disposizione in armonia con la volontà divina. Deve usare la massima diligenza nell'esercizio delle facoltà che gli sono state date per ottenere il compiacimento di Allah. Deve comportarsi nei rapporti con le altre creature, umane e non umane, e con il creato, obbedendo alle norme di condotta dettate da Allah, nella consapevolezza che in ogni momento egli si trova alla presenza del suo creatore. In questo consiste la spiritualità dell'Islam. Con la pratica attenta e scrupolosa del codice di vita dato da Allah, si sviluppa la spiritualità che porta alla vicinanza di Allah. Ogni cosa che l'uomo vicino ad Allah compie, la compie con la coscienza di esserne responsabile davanti ad Allah e la compie per ottenere il compiacimento, vivendo in armonia con la sua legge. L'aspetto materiale della vita di un uomo vicino ad Allah, per la sua intenzionalità trascendente, assume i connotati della vera e autentica spiritualità.